sta innescando. E io, questo è quello normale, è molto più chiaro, ma lascia quello oggi. E quello là dietro di Skostov, di per me sì, poi ascolta anche il parere degli altri. Io non noto nessuna differenza. Anzi, ti dirò, come ti ho già ribadito, che questa è molto più chiara rispetto all'altra. Lui, il canale a guba, te lo puoi avvicinare alla bocca, tranquillo, è un bel forte come radio, e questo va molto meglio. Più corposa la modulazione. Ah, io mi vedo va bene con il radio PLL. Con quei semi digitali non va bene. Ah, va bene, va bene. Però questo lo preferisco, molto più chiara, più corposa la modulazione. Cappa, va bene. A me va lì a piove. E anch'io un po' mi vado in testa oggi. Ma io soffro, la scusa che puglia molto gli occhiali, mi fanno male sempre gli occhi. No, domani ha dato tempo bello, domani è soleggiato, oggi non c'è vento, non c'è niente, la giornata è un po' grigia, quasi che piova magari più tardi, non so, però domani ha dato tempo bello. E un po' di freddo già c'è, non è che ci siano, insomma, c'è sempre questo freschetto la sera, stamattina stava un po' meglio. Io infatti ho tanto, già va bene, dai, e il tempo scivola ancora, la primavera, piano piano, metà marzo, primi di aprile, inizia a cambiare il tempo. Sì, ma gli ho detto poteva prendere qualche delusione, perché questi microfoni così non è che vanno bene a tutte le radio, capite? Io sai quante volte ci ho provato sul DAC a mettere l'M300, tutti i diversi microfoni, non c'è niente da fare, non esce bene, il microfono che fa bene lì è tranne più 3, punto e basta, va bene anche il più 4, più 5, però modulazione è cupa, il Turner va bene, l'unico microfono che va bene. Quindi non è detto che tutti i microfoni si possano abbinare ai baracchini, capito? Sì, penso di sì, vediamo se lui, Marco, tu sì. Sì, aspetta Eugenio un attimo, anche Valerio, che c'è Marco sotto casa in macchina. Questa è molto meglio dell'altra rispetto a quella di ieri. Sì, col microfono male vai bene tu. Metti l'altro microfono e fammelo sentire, vai. Sì, a fra poco, se ci vuole cambiare un microfono. Aspetta per la sera per cambiare un microfono. Fai stacca, attacca. Cazzo di erbo. Ci stanca anche attaccare un microfono. Vabbè, pesce di sì. Vabbè, ti ha salutato Eugenio, non ho sentito. Ah, c'è la manetta col baracchino, ti ho detto. Boh, è una brutta manetta. Non stare con i fatti bassi, lascialo al massimo quello. E beh Marco, ma il microfono dai magnato? Sei scioccato per cambiare un microfono, cosa ci vuole? E lo stava svitando con la pinza. E sai, ma lui deve cercare in mezzo a tutto quel baravan che c'ha nei tappeti. E magari è andato a finire nella sabbia del gatto. Vabbè, quando sei pronto già, mami, noi siamo qua. Capito, lascialo al massimo l'Uranus, non lo abbassare la potenza. Eugenio sta facendo merenda. Sicuramente, ora di mangiare. Ehi, ti ho detto, lascialo stare al massimo l'Uranus, non abbassare la potenza. Bubu. Quasi 9.10, sì, 9.8, radio 5. Perfetta. Tipica. Lascia tutto, non tocca se. Sì, sembra bene ferma. Ascolta, ma Giuseppe poi l'hai più sentito? Si è sentito davvero? Io non l'ho più sentito. Non c'è o è caput? A me mi ha detto che non stava bene l'ultima volta. Non so. Se non è all'albergo lì H. Non so, perché ho provato a telefonarle, non prendeva il telefono, sembrava spento, irraggiungibile. Diglielo, io ho provato sul telefonino, ma non prendeva. Capito? No, perché se è impossibilitata ad usarla quella radio, salgo e me la porto via, capito? Me la riprendo io. Me la ripago, me la riprendo io, me la tengo di scorta, non voglio la faccia fine. faccio. Dimmi Marco. Va bene, va bene. Sì, un po' più bassa, però già si sente. Prova a tirartelo sulla bocca, ti dici va bene, va bene. No, va bene in macchina, il microfono a manetta, va benissimo. Ma io pongo in moto e fai andare quel catamarano. Avanti. Ciao Rossa, buonasera anche a te. La cosa è bella. E poi oggi hai finito? Vabbè. Che uscite così presto oggi? Bravo Costa. Ma maledurchi. Oh yeah. Ti va bene allora. Allora per oggi hai dato. Per oggi hai dato. Vediamo se ti ascolta Valerio Dalghero. Valerio lo senti a Costanzo o Barra Pesante? Solo lui ha parlato. E sei carico adesso, quante ne hai sopra lo sta? Adesso vai in deposito, abbandona il tutto, vediamo anche a domo. E la rete della scia qui la luci, ah costa, e segui. E vabbè. E vabbè, ma Eugenio se lo porta dentro il porto e l'imbarca di Murchi penso che lo sappia anche tirare su strada. E beh, vai tutti di lì. E poi ti ripeto, sei bravo a posizionare dei morchi, quindi già lo sai, fatto tuo, perché tirare un articolato su strada è un conto. Andare a posizionarlo dentro un piazzale a fare manovra è sempre più difficile, non so se sto sbagliando, ma è così, no? E vabbè, ma lo deve tirare fuori dalla nave, però, così, vabbè, allora non ti svanto, però, l'ho sentito dire, io, lo sai, conosco tutti questa. Ho sentito dire, so che è più difficile sempre posizionarlo remolchio che trainarlo, quindi le manovre sono sempre quelle più difficili per quei mezzi, capito? Se no ti sembra che hanno remolchio, ma è un casino. Avanti va lì, no, è sulla Barra Pesante, sta andando in azienda, adesso lascia la Barra Pesante, prende la macchina e se ne va a casa a Costanzo, capito? No, ho detto che Costanzo e Eugenio fanno quasi lo stesso lavoro. Si è impiegato a mollo. In pratica Costanzo guida proprio l'articolato, che poi non è un articolato, è una bisarca, ok? Costanzo, e quindi va e viene per tutto il nord e sud di Sardegna, mentre Eugenio fa lo stesso lavoro, però come lo fa? Lui aggancia e sgancia i rimorchi, li toglie da dentro la nave e li posiziona nel piazzale del porto, capito? Eugenio è entusiasta di quel lavoro, capito? Bisogna stare molto attenti perché gli articolati sono carichi, non sono scarichi, quindi bisogna stare molto attenti. Il posiziona dentro, alla partenza della nave, quando la nave arriva, li ritira fuori, capito? Li posiziona nel piazzale in modo che poi gli autisti agganciano e lo portano a destinazione. E vabbè, il camionista è un'altra cosa, Costanzo fa quel lavoro, capite? Lui invece appartiene alla compagnia portuale e quindi fa quel lavoro. Dentro il porto comandano loro. Dove sei arrivato, Costanzo? 5859, segnale per te, radio, una bombarda. Vai, oggi. Metti quella bocca impastata, come devo dire la bocca impastata? E quel baracchino con l'ecco quando spinge, spinge, la senti un po' l'acuto e quindi sembra che sia impastato, ma è chiarissima la modulazione. Dimmi Marco, dove sei? Sì, ma la tua modulazione da quella di Eugenio col microfono normale non si allontana molto, Se tu stai usando l'amplificato, il ZG, la tonalità è acuta, ma non ti allontani molto da quella di Eugenio, perché anche quella di Eugenio, nonostante usi il microfono normale, è molto acuta, è fortissima come modulazione. Io gli ho consigliato di tenersi il DM1000 di scorta e usare il microfono normale che va più che bene, non bene, più che bene. Avanti genio, ehi, è in macchina, sta andando a Città Marcata. Sì, ma siete simili come modulazione, non pensate che va già tutta l'amplificazione, Marco, è chiara, pulita, bella, però siete simili, allora non mi capisci, ti ho detto tu col microfono normale sei simile a lui, non si allontana molto, per dirti che il microfono che hai tu, quello normale, è molto molto forte, va benissimo, alla grande, esatto, vediamo Costanzo se è già arrivato in piazzale, via, starà posizionando, vai Valì. Eugenio ti lascio la 48, no, c'è un bel baracchino tu in macchina, lascia stare quello, non toccare niente. La macchina è favolosa, cosa vuoi mettere? Cosa vuoi mettere? Va bene così com'è, va benissimo così com'è, non bene, oggi. Va bene. Se vuoi sentirla più forte bisogna che anche tu fai la prova o col DM1000 oppure ti devi procurare un M300 o qualcosa del genere, perché questi microfoni, quelli lì, capito, ti fanno la modulazione cupa, invece la tua è molto chiara come modulazione, io la sento, ti ho sentito anche l'altro giorno. M300 della Intec, però è difficile da trovare, però se lo trovi su internet, ma è molto difficile. Quindi vanno molto bene in macchina. Però ti ripeto, la tua modulazione in macchina, io tutte le volte che sono in macchina, per me va bene. Non è nessuna pecca, nel senso che hai la timbrica buona, c'hai gli acuti, c'hai medio bassi, va bene così, quindi cosa ti cambia da lì? Non è che vivi in macchina, quando sei in macchina esci benissimo, anche perché c'hai un bel abbinamento con l'amplificatore, quindi va bene. Non toppese. Marco, dove sei? Corso Trinità, va bene. Vediamo Costanzo, si è posizionato, cosa? Va bene, fase di manovra, quindi stai staccando tutto? Va bene, avanti oggi, cosa sta dicendo? Marco, l'hai sentito? Che attacchi c'hai? Anche tu sì, ce l'hai la radio, va lì. Ascolta, che radio è quella che c'hai in macchina, tu così tagliamo la testa al toro, perché quelli col down out sono appunto semidigitali. Che radio è? Lascia perdere, non va bene. È simile a quello che c'ha Eugenio, capito? È simile a quello. Non va bene. Procurati un M300 oppure lascia il microfono che hai, che vai benissimo. Guarda, se vuoi un baracchino modificato per la macchina, lo paghi ma ce l'hai eternamente. Te lo faccio prendere io. Un 88 ma con le palle quadrate, modificato alla grande, ma bellissimo però. È bello. Costa, quello che c'hai tu cos'è? Un 88? Allora 87. Certo, il frequenzimetro con tutte le bande, quello è modificato, è una gannolata. Mamma mia quanto è bello quello. Quello è bello, ma se lo senti è una schioppettata. Bello con il suo eco, tutto potenza, quanto ne vuoi, e tutte cose. Allora 87, se lo vuoi modificato. Se lo vuoi modificato, quello è modificato, capito? Con la scheda Colt, mentre Marco ne ha diversi che non sono modificati, poi vedi tu. Digital 87 e vai, te lo guardi su internet, capito? Aspetta, la mando io la foto, dai, anche tu sei come Rattapignara, guarda, ti mando la foto così lo vedi. Aspetta, ti mando la foto. Ah, cazzo, mi sono incasinato. Anzi, ti mando la foto. E così vediamo un po', aspetta. Che cosa? Guarda, ti ho mandato la foto. È senza frequenzimetro, 6 bande però, capito? 6 bande, modificato Colt. Perché non si può portare in macchina, omologato quello. Quello c'è una modifica che puoi attivarla e disattivarla, capito? Questo c'è la Costanzo, lo straniero, capito? Adesso quando tu decidi, me lo dici, io ti faccio subito incontrare. E si è arrivato, con quello si è arrivato, perché è colto, capito? È modificato. Però la modifica è fatta da chiaramente professionisti, perché non li fanno qua in Sardegna, è fatta che lo puoi usare sia colto che normale, a tuo piacere. Costa, mandami il prezzo su WhatsApp, a me però, sono apparati che te li fanno pagare, perché il lavoro che c'è è micidiale, poi però puoi stare sereno e tranquillo. Io avevo un 48 modificato che era di Gigi Vulcano, l'ho tenuto per anni, l'ho venduto a un camionista e ce l'ha ancora, sta sempre funzionando ed è una bomba. K, guarda, completo, garantito al 100%, te lo garantisco io, qua. Hai letto? Allora, quando sei pronto me lo dici. Ripeto, te lo garantisco al 100%, perché lo compri come nuovo, quello è nuovo, è stato comprato nuovo e mandato a fare la modifica, capito? Mai usato, nuovo. E chi te lo dà, se decidi di prenderlo, è una persona che puoi toccarle tutto, anche il sedere, non lo so, però il baracchino gli devi toccare. Tu fammelo sapere, tra qualche giorno io ti metto subito in contatto, capito? Perché è nuovo, quello è comprato nuovo, no? Nel senso buono te lo dico, perché ci tiene tantissimo alle sue cose, capito? Ci tiene tantissimo, ho comprato il Magnum, l'S9 modificato, e mi ero proprio, non lo volevo dare a nessuno, a nessuno, a nessuno, a nessuno. Poi una persona mi si è attaccata, che l'ha voluto, con praticamente mi ha detto che non l'avrebbe mai dato, che se lo dava me lo restituiva a me, e invece ho saputo che poi se l'ha venduto. Se sapevo una cosa non gliel'avrei dato. Io ci tenevo tantissimo a quel baracchino, capito? Era nuovo, nuovo, nuovo. E lo stesso me l'aveva fatto avere Costanza. Al prezzo di quello. Tutto c'è a quello. Ed è originale. Originale ed è omologato. Il problema è quello, capite? Omologato. Decade l'omologazione, nel senso che è modificato. Però la modifica infatti è stata fatta per usarla sia normale oppure Colt, capito? Quindi tu macchina lo puoi mettere tranquillamente. Aggiungi quello lì e le rimandi la coppia. In quello che hai già aggiungi, lo scrivi e glielo rimandi per metterti il timbro, e va a fare la stessa cosa, uguale, aggiungi, come ti ho detto, la sigla e la marca di quello e glielo rimandi, oppure le avvisi che hai sostituito il baracchino, basta, non succede assolutamente niente, e se no non fai niente. Tu fammi sapere i prossimi giorni e poi io ti metto in contatto. Però la legge dice che con la concessione in uso, sia mobile che marittima o fissa, con una concessione tu puoi avere 10 baracchini. Non sei autorizzato a dare nessuna spiegazione, quindi siccome tu hai la concessione, io oggi uso questo, domani in macchina metto questo, dopodomani metto quello, l'importante è che sia sempre omologato, ok? Queste sono le nuove regole. La legge cosa? Sì, ma io ti rispetto che cosa, quello lì è omologato in tutti i sensi, qualsiasi controllo ti facciano, se tu non attivi la modifica, quello è normalissimo, ok? Poi quando vuoi tu attivi la modifica, quindi non sei autorizzato a dare nessuna spiegazione. Siccome è la concessione, quello è omologato e lo puoi mettere in macchina tranquillamente. Anche Costanzo fa così. Costanzo ne ha 3 o 4, ogni tanto ne cambia uno, non è che ogni volta aver capito. Non cambia lui, un giorno, per dire, una settimana ne usa uno, una settimana ne usa l'altro. Però sono tutti omologati, tutti. E lo sto dicendo, lo scrivi e le mandi la coppia, ok? Non succede niente, perché quello è omologato e quindi te lo puoi mettere dove ti pare e ti piace. A prescindere che abbia la modifica, loro non lo sanno e non lo sa nessuno. Se tu non lo attivi, qualsiasi controllo ti facciano, quello è normale, guarda chi. Ok. Poi fammi sapere, va bene? Quando mi fai sapere io ti metto in contatto col proprietario e vi arrangiate. Cosa? Stai scendendo dalla macchina? Ciao, cosa? Le prossime, vai oggi? E io devo salutare mia figlia. Uscia! Ormai tutti i polpacci di Lanchi, oggi pare che ha giocato una battita di pallone e non ha giocato nulla, chi c'è un problema? Non è riparazione, perché? Perché l'hai promesso a qualcuno. E come infatti adesso vedo in questi giorni è che sono in malattia, capito? Vedo un pochino se l'ha fatto, se no ando me lo miglio e lo do a Gigi. Mi faccio divertire a Gigi con quella radio, che già la buona Porzoedo, avrei vedere la buona Porzoedo. Gigi è bravo in quei baracchini, capito? Gli era 48, li conosce bene. Allora lui ce l'ha uguale, lo faccio fare uguale a quello che c'ha lui. Tu non ti preoccupare, abbi fede. E poi lo riportiamo al colore suo originale, capito? Non che c'è un colore nido, mi pare un pipistrello. Uguale uguale no, però c'è il suo grigio scuro che è molto meglio di quel nero, capito? È più adeguato a quel baracchino, capito? E gli arrivati in prezzo, io non ti preoccupare. A volte poi adesso mi interessa che torni normale e poi vediamo, vai. Uia, uia. Ma lei qua sta per piovere. Aspetta che do a mangiare il cane. Eccomi, non sei io. Beh, Ratta Pignaro, dove sei? Ho già arrivato a Città Mercato. Stavo andando a Città Mercato. Più o meno come quello lì, dai. Mi sembra un po' più stretto, una cosa del genere. Hai capito, Diego, stavo dicendo? Che Marco stava praticamente usando quello della ZG, però non si allontana dalla tua modulazione, più o meno siete uguali. La modulazione del microfono normale. Che cosa ne so io? Sì, sicuramente. Perché quel microfono è condensatore, capito? Quel microfono di quella radio è condensatore e quindi rispetto a un microfono normale è un po' più forte. Lasci bene al campo, se te lo dico io e così mi. A me non è che me ne viene niente in tasca. Sto dicendo che c'è un bel bene. Se no ti avrei detto metti un altro tipo di microfono perché non va bene. Quello va benissimo, alla grande, ma bene veramente. Ma cosa gli stai spiegando? Ah, è il genio gli puoi spiegare come si aggancia e si sgancia e tu. Ah, Lucia, ciao. Ti aspettavo, pensavo che salissi a portarmi quell'affare là, capito? Quella radio grande che mi hai detto. Ok, comunque buonasera. Buonasera circolare, dai. No, mi sto appena arrivando. Sto appena arrivando, ho appena acceso, adesso sto qua. No, con la radio grande. No, il 44 devo portare. Va bene. No, pensavo che volessi provare anche quell'altra grande che stavamo parlando al telefono, capito? Per vedere se effettivamente era qualcosa di quello che pensavo io o qualche cos'altro. No, Flami, stamattina che l'ho lasciato, di nuovo gli ho spiegato che cosa c'aveva più o meno e niente, quindi gli ho detto se questo chiamiamolo apparato tu lo puoi mettere in sesso, sto qua, ti ho detto chiami il Carlo Bianconi, le spieghi più o meno cosa c'è, tutto quanto lui te lo mette a posto, ti dice qua te lo mette a posto. Ma infatti, ho fatto male a lasciarlo così in fase di abbandono, capito? No, non si lasciano quelle radio lì così ferme per tanto tempo. Assolutamente, Sandro. Vabbè, hai fatto bene a tornare. Ok, avanti oggi. Non c'è problema. A me mi interessa soltanto che ne sono di certi personaggi, capito, gli amici, poi dal resto non mi interessa. Se c'è problemi di vita ti consiglio un dottore che vuole fare corrate. Inteso, ho già detto Valerio, invece si è sotto casa sua. Valerio? Via Valerio! Ciao Valerio! Ehi, mi sono trasferito, insomma. Ehi, addirittura Valerio. Mi fa piacere, dai. Mi fa piacere che mi ascolti bene. Evidentemente, diciamo, non hai QRM, hai una buona ricezione oggi, dai. Ok, dai. Ma sei in cucinato o in macchina? Allora è la grande. E allora va bene, Vale, considera che ho problemi di antenna. L'ultima tempesta, evidentemente perché sono fuori stazionaria, mi ha creato qualcosa. Quindi ho un po' di stazionaria, quindi considerando che sei nella tua QTH, nella posizione che sono per Alghero, che io sono un po' negativo, e allora va più che bene, Vale. Allora guarda, per dirti la sincera verità sto usando un Colt Excalibur, non so se lo conosci, un vecchio apparato di vecchia data, Colt Excalibur SSB, quello grigio argento e così via. E diciamo che questo è stato un attimino potenziato. Quindi portate luce, c'ha intorno ai 10 watt, modulati, ne saranno intorno ai 25-30 watt, non di più. E va bene, dai, va bene. pochino, va bene così, dai. Allora non tocco più niente, lascio così com'è l'antenna. Va bene, Claudio, riprenditela. Claudio, 150 watt. Ho quasi 9,10, con picchia 9,15 quasi, quindi penso che quell'antenna non abbia subito nessun danno. No, no, un po' di stazionarie ce l'ho, Claudio, non ne avevo stazionarie, non ne avevo, avevo uno e uno su tutta la banda, diciamo anche sulla banda superiore, l'avevo quasi quasi, neanche si muoveva, adesso ho quasi 1,3, quindi qualcosa, o è salsedine, umidità, qualcosa ci deve essere. Sì, magari salsedine, però va bene, 9,10 è un ottimo segnale, lasciando perdere i picchi di modulazione, 9,10 sia a livello locale, capito, va bene, avanti, va lì. Stavi dicendo a me, vale, che mi sono allontanato un attimino, ma attualmente sto usando la mitica 9,1. Ce l'ho e parcheggiata da una parte perché me l'aveva spezzata, una bella avanzata una notte, non ha retto, me l'ha spezzata e quindi l'ho portata giù. L'ho rimessa in sesto, rimetterla qui non me la sento. E allora, siccome ci avevo in campagna, ci avevo la magnifica 9,1, forse l'unica, non so se ci siano altre antenne che possano sostituirla. Qui è già collaudata, qui nella mia posizione l'ho già collaudata, guarda, tiene tutto. Eia, non toccare. No, purtroppo la devo togliere giù. La devo togliere giù, a malincuore la devo togliere giù perché crea, quando picchia levante qua e comincia a fischiare, è una cosa di bello, guarda, sembra un'ape tra le porte. E quindi niente, a malincuore la devo buttare giù. Lo devo buttare giù perché crea questo fastidio, lo crea a me durante la notte e poi lo crea ai vicini, quindi per non avere storie e quant'altro. E metterò su una mini gran plecchia, ce l'avevo già, e anche quella lì, diciamo che è sempre una mini gran plecchia, ma comunque altro non posso fare. Comunque la 9,1 rispetto alla 9,5 milioni, anch'io ce l'ho 9,1, l'avevo trovata, l'ho ricomprata subito immediatamente, anch'io la 9,1 va bene, la 9,5 sì va bene, però la 9,1 è migliore. Beh, Costanzo mi dà gaggia, e te? Ah? Hai intendi la gaggia, Costanzo? Oggi, è lui che intendi? Sì, io e quando l'antenna funziona va bene? No, beh, la 9,5 e la 9,1 hanno differenza radiale, vale. Una ne ha 5, una ne ha 4. Che problema c'è? Va bene. No, però io ho sempre preferito la 1 dall'inizio, poi avevo preso la 5, l'avevo tolta e togliendola mi si era spezzato un radiale, non sono stato neanche lì a trapanare, a fare, ho trovato la 9,1 nuova, ho comprato la 9,1 nuova, infatti un piantone ce l'ho, un piantone l'avevo fatto e un altro ce l'ho di nuovo, capito? Ciao Costanzo, buonasera, ben ascoltato, avanti Sandro per Costanzo. Eia, carta di Angelo, ciao lo straniero, appena scucciato dopo un po', quando mi stai arrivando basso straniero? Perché io sono arrivato, perché mi faccio una volta, oggi questa è la radio fantastica, però comunque dai, ho un'altra montata, oggi in casa anche ovviamente, non è così, devo curarsi, è fatto un traiettoria, alle volte sicuramente, ma io sono fatto sicuramente a farlo. Intanto vediamo se arrivi ad Alghero, Valerio, lo senti a Costanzo da casa? Ciao Valerio, buonasera, io sono qua, dai, lo stesso, San Camillo. No, fai la bravo oggi, lui per te è più coperto, San Camillo dove è Costanzo è più aperto. aperto per Alghero, perché con tanto sto usando i watt del baracchino normali, ma se dovesse accelerare arriva ancora più forte, capito? Sì, qua è 9 più 10, radio 5 perfetta costante, mentre tu sei 9, capito? Nonostante sei davanti a me. Il tuo punto di riferimento oggi è buono per determinate zone, ma per determinate zone è coperto. Per Alghero tu c'hai Monte Oro, Monte Alvaro, tutta quella zona lì, sei più basso verso Valerio, ho capito, mentre lui invece ce l'ha di fronte, non ha ostacoli. Ciao Costa, buona noce, a buon tutto alle prossime, vai Sandro. Ciao Costa, dai, tutte le prossime, buon proseguo di serata alle prossimine, va bene, avanti Valerio. Vedi la differenza, 5 ti arriva a contatto, mentre Eugenio invece è 3, quanto ti arriva? Sì, ma lo so. Dove abita Eugenio è molto più coperto nei tuoi confronti, aperto per altre parti, però più coperto per Alghero, capito? E Costanzo è più libero verso di te, è più libero, è una zona libera. Va bene, pronto, ci sentiamo. Abbiamo perso a Marco, che si deve essere fidanzato con la commessa di Città Mercato. Attento Marco, lui quando va a Città Mercato si acconna, capito? Si è accunnato, cioè, così è nata lì, un briacone fracico, che allora, accunnato, cioè, vale. Lui quando vede le commesse Città Mercato si acconna. Sì, perché va a Città Mercato, che se non un pipistrello, lui, capito, fa la fila, però poi ti si appiccica, no? Si appiccica, non si stacca mai, con quelle ali che c'ha. Allora, lo torno subito, lo comprai due cosette, sembra che si stia comprando Città Mercato. Avanti, tigre. Va bene, dai. Signori, io non è che posso fare molti passaggi, perché qui io quando rientro c'ho sempre da fare, devo fare sempre l'elenco dei buoni e dei cattivi. Vabbè, fai il rapportino, a me mettimi sotto di tutti, io sono bravo, capito? Dito di fare l'elenco dei buoni e dei cattivi, mettimi ultimo di tutti a me. Avanti genio! Qui manchi Albano, Gantelli, ci mancherebbe altro, non viene la faccia buzzinoso, ma l'acuto che c'è Albano, solo Claudio Villa ce l'aveva, ah, cosa dite? Appunto ho detto l'acuto che c'è Albano, solo Claudio Villa ce l'aveva, così è, poi Eugenio, beh, quanti anni vai? 40 anni hai mai città Claudio Villa? Ne ho 17 più di te io, però l'ho conosciuto da ragazzino io a Claudio Villa, proprio nel periodo in cui cantava, ha vinto Sanremo, ha fatto la canzonissima, insomma. Quindi anche tu dovresti averlo sentito. Ah, ecco, non ti sei mai interessato. No, beh, Albano è una grande voce, la musica italiana, ma non è che a me mi interessa più di tanto, non ci vado matto, capito? È meglio la moglie cantando, lo so, quella mitica, un bicchiere di vino, un panino, felicità, vabbè, se riuscì allora, vabbè, vero, vale, un bicchiere di vino con un panino, e felicità. Un anno più grande di me, sì. È un gran giovanile, per l'età che ha, io lo conosco di persona. È molto giovanile Valerio, atletico, bello, tranquillo, capito? Come sono io, amico? Perché io per l'età che ho ti sembro vecchio oggi? Troia. Guarda Sandro, c'ha 60 anni, sembra un ragazzino, beh. Ancora è la bocca più baciata di Porto Torres. Troia. Oh Valerio, cazzo, di due me ne vinci, di due, capito? Tu ne fai il 59, io sono del 59. sei 59, da 58 cefali. E allora, quindi, Rossandro, oggi Giselli, ce ne frega un anno a noi. Scusa, aspetta un attimino. Sì, c'è Lima 1 Galtieri. Esatto, esatto, ho sentito chiamare Lima 1 Galtieri, buonasera Porto Torres. Ciao, ok, ciao, buonasera Lima 1. Sandro, nonché Tigre, qua Modulante, Porto Torres, in compagnia di un po' di amici, qua abbiamo lo torre di controllo di Assassari. Nonché Claudio Spaziero, poi abbiamo l'amico lì ad Alghero che per te sarà un po' tribolo, e poi un altro amico qua nelle vicinanze di Porto Torres. Ok, mi hai detto qui con l'amico Dinamite, se il Dinamite è quello che conosco io, dagli un colpo in testa dagli, da parte di Tigre, non che Sandro. Va bene, viva uno, dai. Ti passo Claudio, nonché lo Spaghiero. Ah, il rapporto per te qua a Porto Torres, Santiago 2, Radio 2. Hai sentito Lima 1 a Sandro Tigre cosa ti ha detto? 5-5 qua a casa, stai arrivando a Sassari, o Lima 1. 5-5, Santiago 5, Radio 5. Benissimo, non ci sono problemi, ti ascolto magnificamente bene, Otiri, per me è come Sassari, non cambia niente. Ok, va bene, ti saluto e le prove quindi sono abbastanza ultime. Buona giornata, buon tutto, grazie per essere entrato. Quando voi siamo qua, Lima 1 di Otiri, salutami anche a Giovanni. Ok, il cambio allora per Alghero, avanti Valerio, hai sentito Otiri? K, d'accordo, allora mettiamo il microfono a Eugenio. Comunque qua, no, l'avevo sentito benissimo Sandro, mentre stava parlando Eugenio, tra un passaggio e l'altro l'ho sentito. 5-5 arriva qua, non tiri, per me è vicino, dai, non è, è un tiro di schioppo, nel senso come linea d'aria. Va bene, avanti Ingenio. Sì. Già va bene. Ok. Sì, sa, probabilmente quella maestralata, perché io ho visto quando sono salito poi a controllarmi le antenne a casa che la mantova, praticamente il tubo della mantova era completamente bianco di sale. Gli ho dato una pulita così, ma per pulirla bene anch'io la scenderò appena fa tempo bello, la scendo, le do una bella passata di spray disossidante col panno o lo svitto, le do una bella pulita e poi la rimetto su, così tutta l'estate rimane a posto. E sicuramente nel PL si è formato un po' di sale, un po' di ossido, capito? Proprio lì che tu sei vicino arrivano anche le ondate, perciò magari ti causa un po' di stazionarie, ma niente di particolare. Va bene, riprendi Sandro. No, aveva chiuso, lo so, stavo andando via. Comunque sei, ciao Eugenio, comunque sei calato anche tu di segnale adesso, quindi è come dico io, ti sei svitato il PL, cioè il PL tocca o non tocca, perché da 9.10 si è andato a 9. Ma lei confermi che ti ha abbassato il segnale di anche a te di Sandro? Sì, c'è, perché tocca o non tocca. Si è invece rallentato, perché di 9.10 è di 9.10 e sei 9, quindi ecco lì che ti è calato anche il segnale in ricezione, sa, capito? Quindi lì bisogna abbassarla, restringere bene, pulire tutto, restringere bene e ritirarla su. Ciao, ci sentiamo, dai, tante cose belle, proprio buon proseguo di QRL lì a casa, tanto tu ti porti sempre lavoro da fare lì. Buon trabacco, vai lì, Eugenio si è staccato un attimo, lascia un attimo di bianco, vediamo se entra Marco, che era in macchina. Sì, eccomi, sono di ritorno a casa, ho fatto una stagioccia e sto ritornando a casa, dai, poi riprendo la casa. Aspetta, Eugenio si è allontanato un attimo, c'è Marco in macchina, avanti Marco. Posso entrare a casa? Posso non pensare, adesso rientro. Cosa stai portando? Un boccino di vino? No, non so. L'omega forse le stai portando? Ah, che c'ha più watt? Perché lo prima provalo. Poi se ti piace te lo farei. Ma l'omega forse c'ha più watt di quello che sta usando lui adesso. Quindi basta metterglielo, farle vedere il coso del watt, lo tiene un pochino più alto di potenza e sicuramente arriva molto meglio. L'alimentatore lo regge, perché anche l'alimentatore Natalino non ce l'hai più quello grande. Natali, ho detto non ce l'hai più quell'alimentatore grande. Riprendilo lì. Eugenio non sta parlando, Natalino non lo puoi mai sentire perché c'ha un'antenna interna. Marco è in giro dentro Sassari. Io sento Valerio. Sì, c'ha un'antenna alla macchina a base magnetica dentro casa, sì, perché non ha avuto la possibilità ancora di montare un'antenna esterna. Ma penso quest'estate la monti come Cristiani, qualche mini Grand Play, qualcosa, sicuramente, lasciando perdere tutte queste stronzate che si provano, che si fanno, basta comprare una mini Grand Play e il problema è risolto, invece di mettere stronzate. Tanto Sandro con la mini Grand Play da prodotto oggi mi arrivano per più 10, non ho capito. E già facciamo miracoli per ascoltarlo noi dietro Sassari. No, non ne ha appoggio, l'ho capito. Ne ha piano terra e deve mettere un palo esterno che superi il tetto. Però è un lavoro che si può fare. Ma io gli avrei messo una mini Grand Play, cosa? Avrei messo stronzate, antenne costruite, antenne da costruire e pezzi di filo. Una mini Grand Play. A Cassandro arriva una bomba a Sassari con l'antenna a picco. Arriva molto bene. Le antenne sono colorate. Capito? Sono quelli che hanno i radiali corti corti, con il centrale da 2,75 metri, a voglia che esce bene. Dove sei Marco? Anche Marco, anche, sono d'accordo con te, non ci sono problemi, ma insomma, avrei messo qualcosa di efficiente, cosa? Queste antenne, fate un cinetto, lascia perdere. Vediamo se è rientrato Eugenio. No, Eugenio ancora non è rientrato. Vai, va lì. Ma porca via, no, ma te lo sto dicendo, non sei obbligato a comunicare niente. Basta che sia omologato, poi macchina permette qualsiasi cosa. La concessione ce l'hai, quindi. Non sei obbligato, poi se lo vuoi comunicare lo comunichi, ma non sei obbligato a comunicare il cambio di baracchino. Perché la legge è cambiata. Io con la mia concessione posso usarne 10 baracchini, uno diverso dall'altro. L'importante è che siano omologati, quindi non sei obbligato, capito? Perciò, se non vuoi mantenerti la testa, fai come ti sto dicendo io, poi diversamente informati, ma è così. Avanti Marco. Perché ti dia il formatore se attacco per la cavia? Sì, io vattene dentro casa, se vuoi pretendere. Non lo so, comunque qua arriva. Vabbè, adesso facciamo arrivare il tempo buono, poi se non si decidono già mi decido io e lo facciamo quel lavoro, tanto mi barichi. C'è la corsia, forse c'è un becco perché è traffico, capito Claudio? Spero di poter entrare, forse tra i sassi, però dobbiamo fare qualcos'altro. Natalina stava scendendo lì, ma se non c'è posto vediamo via le San Francisco. Non so, vedete voi dove incontrarvi, lì è sempre un casino. Poi abita al centro storico, vale Natalino, capito? Quindi c'ha mille difficoltà per l'antenna, posteggio, mamma mia. È per quello che sto dicendo, capito? Se tu consideri che io ho un'antenna monobanda VHF nella finestra e ascolto il vero, quindi ti ho detto tutto, quando si è aperto, si è aperto. La finestra lato giardino, non lato strada, una monobanda di macchina sul davanzale della finestra con una piazza in ferro solo per ricevere. Ascolto Alghero in VHF, figurati tu. No, non sta parlando nessuno. Vabbè, bisogna stare attenti anche con quello. Ah, così. E allora già va bene, già va bene. No, non è grave quando parte il magno, sottorientativamente è un po' più grande di un Avant 48, dai, un po' più grande, un po' più largo, appena più lungo, non è grande come baracchino, ce l'avevo io, e ce l'avevo il mezzo al sedile, lo stesso, dell'altra macchina, capito? Vabbè, comunque decidi tu, vedi un po', ma non è grande, assolutamente. E sarà sempre Santiago 9, sì, troppo basso. Beh, sicuramente Sandro, è successo qualcosa, sì. Secondo me tocca o non tocca. Si è svitato, magari muovendosi il cavo, tirando col vento, si è mollato il piede, perché altro non hai. Sì, ma è una fesseria. Se riesci una bella giornata, un attimino senza neanche scenderla, salire e restringere il PL, ma lo svitolo, dai una pulitina con lo svitolo e lo reinserisci e vedrai che il problema è risolto, sa. Sì, puoi anche farlo con la gol, però ti ripeto, la Mantova non ha bisogno di sostegno sul centrale, neanche sui radiali. L'unica cosa è stringere bene il PL e basta, per far sì che non strappi col vento il cavo, farle una semicurva e fascettarlo al centrale come ho sempre fatto io, e problemi no, non ce n'è, capito? Perché è lì che strappa, che tira e strappa. Buonasera. Ciao Gio. Anche tu stazionaria, io ho uno rapporto a uno, praticamente manco ci muove, ok, capito, sa, c'è sempre fare una curvettina, non dico un simmetrizzatore, perché non serve a niente simmetrizzare la 27, ma una curvettina appena, in modo che il piede rimanga fermo, fascettato, sotto. Io faccio sempre così, non ho mai avuto problemi. Non metto anelli, non metto niente, ho messo solo un pochino di una pennellatina di grasso sul PL per far scorrere l'acqua, non metto assolutamente niente. Avanti Gianni, c'è Valeria, Sandro, Marco dovrebbe essere in macchina, non so dove stava andando. Gianni c'è stazionario, avanti Valeria. Assolutamente no, è una vita che io non metto niente. Continuo a dirlo, ognuno fa quello che vuole, io non metto mai niente. Io ho avvito bene il PL, bene, stretto bene, dopodiché il cavo che scende dritto nel tubo le faccio una semicurva, e lo fascetto. E poi l'altro fascettato naturalmente al tubo di sostegno e basta. Un pochino di grasso nel PL io non ho mai avuto problemi, mai e poi mai, né nel PL né niente, nulla. Non metto vulcanizzante, non metto niente. Vulcanizzante, cosa succede? Che è praticamente, soprattutto nel PL, no? Che è una ghiera di cos'è, di alluminio, cos'è, di non lo so, di ghisa, cos'è, comunque. Lì, e quando piove, si forma sempre un po' di umidità, non asciuga mai perché è vulcanizzato, mentre invece se c'è il grasso, l'umidità non se ne forma e l'acqua non si attacca. Io sempre, in tutti i PL che io su, ne ho 5 di PL, compresa la Meritrong che appunto mi consente di commutare elettronicamente le antenne, quindi sono tutte piene di grasso, ma non lo dico io, lo dice gente che è una vita che fa questi lavori, quindi è chiaro che ascolti anche chi ha più esperienza di te, non ce ne vuole vulcanizzante, solo le antenne vogliono vulcanizzate per far sì che non entri l'acqua e non stagni, ma il PL no, non c'è bisogno. No, Sandro sta facendo cose. Sì, ma infatti è proprio l'oscillazione dell'antenna che quando oscilla li muove, li flette, e quindi se il PL non è stretto bene si allenta. Allora per far sì che non si allenti bisogna darle, come hai detto tu, una giratina e poi la fascetta bella grossa lì e basta, poi il resto del cavo lo fascetti al tubo al tubo di sostegno, perché lì flette molto, lì fa un po' di forza. Vediamo Gianni, io ho questo metodo, vale, rispetto, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma io non uso vulcanizzante né PL, non ne ho mai usato, vale, anche nelle direttive, niente, le direttive sempre ascoltando chi pratica, non ho manco PL io, capito, sono occhielli diretti, diretti a gancio diretto, negli occhielli c'è il grasso e basta, non ce ne vuole di vulcanizzante, che serve vulcanizzante. Vulcanizzare solo le antenne si vulcanizzano, quando devono essere vulcanizzate, altrimenti si lasciano libere con i suoi gommini, con le sue staffette, tutto qua. Ok, avanti Gianni. Non è che siamo molto alto, sono 1,5, però c'è un 1,1 stazionale, anche a te, se non è, c'hai cos'è girato il PL, qua c'è RG58, c'è RG58 è ancora più facile muoverlo, capito? Non ce n'è il giro e fascetta sotto il PL? Sì, c'è il giro, c'è. Praticamente fascetta non ne ho messo. Non ho messo vulcanizzata, cosa ha fatto anche sotto il marino. C'è vulcanizzata sotto. E sopra ne ho messo un filo di nastro. Non ho messo più vulcanizzata. Grasso da vulcanizzante. Vulcanizzante, il problema vulcanizzante è, non volevo segnare niente, che tra il caldo e il freddo si allarga e restringe, si spacca, qualche fessura c'è sempre. Cosa succede? Piove, lì entra l'umidità, non dico l'acqua ma l'umidità, e poi col vento, con la salsedine va a colpire sempre lì, è chiaro che poi diventa un casino. Capito? Diventa un casino. Invece se c'è il grasso non attacca l'acqua, non attacca la salsedine, non attacca niente, è stretto bene e tu sei a posto. Io faccio così Gianni, non vento. Io qua, come avete avuto il vento voi, io l'ho avuto peggio di voi. Atti 230 inserito, stazionari è zero. Uno rapporto a uno, manco ci muove. Oh la mazza e te ne vale niente. Zero sotto zero. Zero sotto zero, tenendo conto la mia antenna flette ben poco, riceve un tubo d'acqua da un pollice e mezzo, senza attiranti, senza niente, a 40 metri di altezza, quindi vedi tu Gianni. No, a me così mi hanno consigliato, niente vulcanizzante nel PL, sai che mi ha fatto l'impianto a me perciò, niente vulcanizzante, grasso, tutto in giro e giro al PL. Il problema è risolto perché non si attacca nell'acqua, niente, si può attaccare la polvere, però con l'aria del tempo poi lo togli, lo rimetti nuovo, ma l'acqua non si attacca, non attacca nulla. Dai este, vabbè, avanti Valeri. Io nelle 18 Valeri ce l'ho tutti i quarti, 13 anni, non ho mai cambiato. Voi dite quello che volete, ma RG58 è un buon caso, quello che dico io, RG58 U. E finirà già, fai serio, fai RG58 U. Cosa vuol dire U? RG58 è boh. E ora che te lo cambi e ti metti all'avanguardia, avevi già buon capo, 13 anni muro che hai. Te lo voglio spaccare a vedere com'è quel capo dentro, sarà nero che. Non ho capito, sei saturo, cosa hai detto? Ascolta, Ratapignana, ma perché non te ne vai tutto bello a fare le prove? Prova già, eri saturo poco fa, non ho capito niente, cosa hai detto? Ho detto che era 1,1. Sarà 1,1, allora vuol dire che hai toccato qualcosa tu. Era il 10,58, il 10,58 è per la macchina già, lascia verde. Non ha nessuna caratteristica. Faccio leggere la tabella del RG58, ti metti a piace, c'è una perdita per, mi pare, ogni 10 metri di 2 dB, un cavo non serve a niente, un cavo per fare prove, per usare in macchina, per discese d'antenna ci vuole o il 213 che è quello, insomma, più scadente ma più efficace, oppure un H1000, il 58 non lo so, sì. Assolutamente. lei cosa c'hai? 213 o la Camille? Ma la Camille? La Camille è un buon cavo. Io ce l'ho unico cavo di discesa per le direttive, per le due, per le U. È unico cavo di discesa per la Mantova. Prima avevo 213 anch'io e poi ho cambiato tutto. Ho messo quello che è ancora più efficace. Non è che dura nel tempo, vale. I cavi, se sono canalizzati, durano un'eternità. È la perdita che hai, è un cavo che non serve a niente. Un cavo per pochi metri, se ne hai 4, 5 metri, ecco lì che lo puoi usare, ma quando ne hai già 20, 15, 20 metri, 30 metri, è un cavo che ti crea problemi sia in ricezione che in trasmissione, è un sacco di perdita, in DB, capito? È un sacco di perdita, io c'ho la tabella che mi ha dato Giulio dei cavi, è allucinante, quando ho visto la perdita del RG58, anche l'antenna che c'è nella finestra l'ho cambiata subito, gli ho messo uno spezzone di 213, è allucinante, un cavo che non fa miracoli, capito? Non fa miracoli. E poi, insomma, niente, poi, ognuno è libero di fare quello che vuole. Gianni c'è quello perché entra in un punto dove sicuramente non deve bucare per farla entrare, capito? Perché è un cavo grosso, è un cavo rigido, quello invece va meglio. Fabio, il segnale come io, 1 e 2 ci sono andati. Ho toccato il cavo dello spettro. Aspetta che qua è entrato un reggimento di soldati, mamma e figlia, e non aggiungo un peso nulla. Ah, ho detto che ho toccato lo spessore, adesso c'ho 1 e 1 e 2 di stazionati. Come sta arrivando il segnale? Lo stesso segnale di 7? Sì, però cosa vuol dire hai toccato lo spezzone? Questo spezzone perché ti fa salire stazionari? E come l'ho mosso? L'ho svitato, l'ho mosso appena appena, adesso glielo cambierò, dai. Intanto ce l'ho già pure. Non faccio altro che andare su e cambiare, ma se devo raccontare non la cosa, non facevo cavalcava. No Gianni, sì, 9 più 10, il tuo segnale è 9 più 20. E quindi è più facile, sì, sì, e come parli tende a salire e poi scende, tende a salire e poi scende, c'è qualcosa che non va. Sì già, e stai usando sempre la stessa radio con la stessa potenza? Sì, già. Aspetta, più abbassa, no, così non abbassa il fuoco, non abbassa più il fuoco. No, già, no. 9:20 devi arrivare tu qua, con picchi a 22:23, sei 9:10. Allora c'è qualcosa che non va, ma non va toccando. Cosa? Cosa vale? C'è qualcuno sotto, avanti? All'Alghero addirittura, anche Alghero ci avete importantisti. Non sa chi sia. Ui. Mamma mia, come sto? Vabbè, lì c'è da fare la conta di quanti siete. Prova già a muovere mentre stai parlando, se ti viene bene a muovere il tuo cavetto, io, che poi vado a portare il cane. Aspetta, adesso mentre sto parlando, sì che muove leggermente di più, ma come lo stai svitando, toccando, però rimani sempre tra il 10 e il 15, non sali al tuo segnale. Già, poi si sia su allora, non so, controlla meglio lì, se c'hai il commutatore c'hai. No. Ma qua c'entra parecchio, è favoloso, la radio è la tua, noto solo questi 5 dB meno, però bisogna vedere se chiaramente è sul problema col vento come ha fatto Alessandro o se è lì. Lentato la molla addirittura? No, e come l'hai stretta la molla? Non si allentano, ehi, che aspetta. Si può stressare anche. Ma controlliamo il dietro, allora. Non è andare a fare il dietro. Voglio come si chiama? Eugenio. Vabbè, io vi lascio, vai. C'è Marco in macchina, Valerio, Gianni, io vado a portare il cane. Un saluto a tutti, circolare, se ci siete dopo, altrimenti fatevela buona. Buona cena a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Valerio non mi ha risposto poco fa, ma adesso non è un controllo di segnale, se è sempre lo stesso, se è strano. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Già, se attacchi è normale, sali a 9,20, ma non è normale il tuo segnale liscio, capito? Lo so. E allora cosa attacchi? Se c'è un problema aumentare ancora il problema, se attacchi aumentano ancora di più le stazionarie. Non lo so, sono provato. No, ma no, non li provati che ti goci così già, stai usando una radio seria. Se c'è le stazionarie bisogna risolvere il problema a monte, perché sei calato di 5 dB qua da me, quindi se ti ha dato 4 o Valerio, Sergio vuol dire, sta arrivando Santiago 7 da Eugenio. Io qua in stazionale c'ho 1 e 3, che non ho mai avuto, erano sempre 1 e 1 massimo. Vabbè, questo 1 e 3 non è che siano stazionari, c'è un po' di rosso, ma comunque sono abbastanza nella norma. Però il problema sicuramente c'è, e secondo me ha mollato un po' il PL, ha scalzato un po' il PL in gergo sassarese, capito? Muovi, la flessione dell'antenna stessa ha fatto sì che la calza o il centrale sia un po' ballerino. Udoli così, quando fate un po' bello lo facciamo già, e cosa vi fa? Se è da fare, giusto. Sì, sincero, Gianni c'ha delle belle radio, e quello è un baracchino, Gianni c'ha già una radio, c'ha Saturn Echo, c'ha il Cobra, c'ha il Magnum, il Biazzichisso, parlo Magnum, l'S9, il modello nuovo, quello da 80 watt, capito? Bellissima radio, c'ha il Cobra, altro mostriciattolo, insomma, ne ha le belle radio Gianni, dai. 4 pili di cosa, hai già detto? Gianni ne ha avuto 4 in Gamewood. Solo che per lui sono troppo ingombrati, capito? Là ce li vende. Giratemi i pibilistri, vado a portare il mio cagnone a fare la piscia, Per rischiare che stanotte non ha fatto acqua. Già, attrizzati, altrimenti per tutto niente. Vabbè, io sto andando. Ciao a tutti, QRT, a frappè, ciao. Ciao, ci sentiamo. Ciao, vabbè, ci sentiamo. E vabbè, ricordarci che questa abbia fatto là. Non è colpa nostra. Però già, lo vedremo, là, non c'è problema. Ma non penso che ci sia bisogno. Sicuramente c'è dato delle piede, perché sono andato per sicuramente questo. Muovi il capo, la mattina non è stato lì. Ma ci arriviamo con le senza abbassarla già? No, non penso, no, senza abbassarla non si è abbassata. Ma no, caro, ho fatto abbassarla di un coso. Vittare abbassare il palco. Vabbè, senza attaccare i tiranti, e poi quando si tira su i tiranti già vanno in tira da solo. Va bene. Adesso tienila così, vediamo se domani non c'è vento, si fa. Cosa che mi è venuta a me, che non ci sia, che c'ho la compressore attaccata a me. Adesso sei 9,20 già, 9,20 pieno. Questo è il più. Questo è un altro bisogno, quello. Non so cosa sia successo, c'è la c'era stata qualche bidone, no. Perché anche quello c'è buccio. Visto 9,20 poco fa, poi si è calato nuovamente a 9,10. Per me è il PL mollato già, non c'è altro. Tienila così e poi domani ci organizziamo, vediamo un po'. Nonostante non cambia il tempo, ma dovrebbe aver dato bel tempo. E domani è scuola di 3, E ci fa domenica, capito? Ma sabato allora ci fa questa cosa, abbiamo deciso. Per me non c'è problema, però il fatto che non c'è Eugenio, questo mi dispiace, capito? Poi la Capignara oggi è entrata a Città Mercato e si è speso tutto. No, io problemi me li metto perché se ci non c'è manco Stefano, capito? Quindi io voglio organizzare che ci siamo tutti, tutto il gruppo, capito? Quindi al limite la spostiamo la prossima settimana già, così sento Stefano, mi sentire io anche, insomma, il gruppo là che ci siamo andati l'altra volta. In più ci aggiunge Valerio con Eugenio. Come vuole. Però dovevo sapere se non mi viene male, non si è abbastanza vuoto. Io vengo qualche altra cosa, se non andare. No, per me ti sto dicendo è meglio rinviare, visto che non c'è Stefano. Magari io lo sento, vediamo se riesce a liberarsi la prossima settimana. Elio mi pare sia impegnato, capito? E poi mi dispiace per Cosio, per Eugenio. Quindi se riusciamo a organizzarci di venerdì come abbiamo fatto l'altra volta, sono tutti liberi, capito mi hai? Poi, ripeto, vogliamo andare, andiamo, io non ne ho problemi. Beh, io adesso vado a portare il cane che è tardi, sono le 8:10, ciao a tutti QRT, bye. Ciao. Un attimo, io stavo controllando a vedere come andava con questo bicio che piccio. Ci sono problemi, sicuramente il vetro ha toccato l'antenna, boh, non so cosa sia successo. Ora. Con questo come avvivo meglio? Prova già. Prova, 1, 2, 3, prova. È leggermente più forte, però non è il tuo segnale. No, ma infatti lo vedo da qua. Mi sta dando 1, 3, 1, 4. No, non è il tuo segnale già. Allora ha mollato sicuramente il PL, qualcosa è successo, niente di grave, non ti preoccupare. Adesso per dire, se io lo metto senza regolare stazionale, arrivo anche a 2,5. Più di 2, infatti sì, quasi 9. Invece così, con le stazionali regolate, 1,3, 1,4. Vabbè, non lo portare comunque, non ti preoccupare, non c'è niente. Sicuramente ha mollato un po' il PL o qualcosa è successo, niente di che, ma non è la spirale, non è la regolazione con la sede. E più il PL sicuramente. Vabbè, vado dopo, ciao a tutti. Ciao. Ricordi che sono meno 10, non ti dimenticare. Cosa, Clark? E sono le 8:10. Sto andando anch'io. No, ti ho voluto dare un input, no? Non si sa mai che ti dimenticare. Vabbè, a dopo, ciao. Ciao, G. Hai. Allora, Luca. Vabbè, Brittella. E a portare a Pippo sto andando, vai. È già tardi, ci sentiamo dopo. Dice Eugenio, ciao. E tanto dopo anche io alle 8 vado via, vado a mangiare. Ciao anche a Gianni, Eugenio. E beh Gianni. E beh, è l'antenna che mi sta dando problemi. Questo è maledetto, Fatto un po' di danno. Poi ho mangiato la asparagi già a pranzo. Se no ora qua andavo a fare la pipì mi affianco. Ehi, si fanno così. Fanno così, a me non è che mi piacciono molto, la verità, Non ci vado matto per gli asparagi. Però c'è gente che le piace, tipo mia moglie che le piacciono molto. Ne ho fatto un po', ho giusto tanto per pranzo, ecco. Adesso stanotte mi faccio le spennette agli asparagi. Ma sei andato tu a farlo? Yes, lì dalle parti di quasi 3 km prima di Usini. Di Usini, Ho capito. Ma se ci vai a Brottamona nella pineta è piena. Ma cosa c'è Marina? Ma dove? Brottamona dove già? Bisogna sapere dove ci sono le asparagine, quello bisogna trovare. Dove ci sono le asparagine ci sono quelle, adesso io non mi ricordo dove le ho visti, però la asparagina l'ho vista in pinetta io molte volte. Sì, bisogna vedere se c'è. Ma senza andare tanto lontano lo sai dove ci sono. È presente la strada nuova che porta a casa. E scendendo dopo la rotatoria, sali sopra quel muretto che c'è, e viene tutto quanto pieno di asparagi. Però c'è un dirigente che va a farmi la verità. Si è pieno o io prende più ova? Non lo so se li hanno fatti quest'anno, quando sono andato io ne avevo fatto un bello mazzurata. Poi abbiamo trovato le bietole, belle, cazzo di sfuglia. Tu manda di. Una della manuduria, tu la mano umana, una della manuduria e le foglie delle bietole. Guarda, dove porto Tyson, se non fosse perché pisciano i cani, ci sono queste foglie enormi, belle, senza un buco, senza nulla, perfette. Vengono, viene voglia anche di prendere e cresce sia quello lì che la rughitta, che a me piace tanto. A me la rughitta mi piace un bel, la metto a tutte le parti. Ma la rughitta non mi piace, no, è troppo amara, è troppo amara. Le bietole, sì, mi stanno facendo anche le bietole. Faccio due pennette, agli asparagi e un po' di bietole. E basta, stavolta leggero. Cazzo di girare. Ma gli asparagi io ti consiglio di farli sempre con le uova, che sono un bel buono. Infatti a pranzo ci hanno messo un uovo, buoni buoni buoni, sono durati poco. E poi ci metti solo il tenero, non il gambo, io ci metto solo la parte di sopra che è più tenero. Sì, sì, anche Marina fa così. Cappa. Luca, che dirti, io sto andando a portare giù il cane, non so se tu a Luna l'hai portata, sto andando a portarlo giù, dai. Cassa stazionale 1 e 4, aspetta, ed è inserito il codice, abbasso che arriverò più di 2, è inserito il matchbox, ma aspetta, così era proprio al massimo, abbassato al massimo. Quando te ne sei accorto? Stasera, stavo modulando e ho visto, perché se stava dicendo che aveva stazionare alte e coso, Sandro di Foro Torres, ho dato un'occhiata al coso, al trasmesser, e mi segnava le stazionare alte. Quel cacchio di fatto ha fatto un casino della Madonna, guarda. E l'altra volta a me di più, a me l'altra volta mi ha stracciato i braccetti della tenda, per fortuna non sono caduti giù, se no faceva anche danno, sono caduti dentro il terrazzo, la tenda che svolazzava da una parte all'altra, io ero al lavoro e mi hanno telefonato a casa che la tenda stava volando, che era pericolosa, che qua che là, è andata mia moglie in fretta a sollevarla, ma aveva già rotto quegli anelli dove si aggancia, in più i due braccetti, che è costato 80 euro. Lo so, ma non si mette maledetto. Comunque a me mi ha stracciato il cavo dell'antenna, cioè quando mi sta nel palo, no, li metti in un'altra isolante, da lì me l'ha sganciato. Se continua ancora quel cavo me lo straccia dal PL. Secondo me da me ha fatto quello, si è staccato dal PL, come l'altra volta, te lo ricordo. Già, se vuoi più munizione, l'anima in parte recuperate la nuova antenna, tanto come l'antenna lì è stata aiutata più volte. L'antenna non c'ha nulla, no? Se si è staccato il PL cosa va l'antenna? No, l'antenna va benissimo. Cioè da quando l'abbiamo fatta, da quando l'abbiamo sollevata e legati così, i radiali, è un bombon. C'è l'antenna ciccia. Ah, non è l'antenna, sicuramente è PL, che da rifare basta, o il cavo, boh, chi lo sa. Tu il cavo fine c'hai, no, grosso. E lo dici quanto? Ascolta, io c'ho uno grosso, mamma mia. Un casino. Ma non c'è anche Eugenio? Sì, avanti Eugenio, dai, io sto andando via, dai, vi saluto. Ci sentiamo un altro momento. Ciao. Sì, tanto anche ho 10 minuti, ancora altri 5. Ciao già, alla prossima. Ciao.